impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Il tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora... sono le 15:01, abbiamo iniziato un po' prima la conta, la prima trasmissione di questo 2020, che auguriamo che porti molta libertà soprattutto a chi ne è privato o privata, quindi a chi ci ascolta o anche non ci ascolta, insomma a chi sta nelle galere, quel orribile putrido strumento ancora, che ancora esiste e di cui dobbiamo liberarci al più presto. Quindi buona libertà anche a chi sta fuori, perché fuori dalle galere non è che navighiamo nella libertà, con questi venti di guerra che poi ogni tanto così ci capitano o ci vanno un po' a disturbare i sonni della fatica quotidiana. Dunque, che cosa vediamo? Intanto un piccolo consuntivo del brevissimo, tanto i numeri non è che poi li diciamo sempre, ma non cambiano la qualità della situazione. Comunque in questo 2019 ci sono stati 133 morti uccisi, non di vecchiaia, in carcere non si muore di vecchiaia, si muore in genere per questi 133 in gran parte per mancata assistenza, di cui 53 suicidi. Ecco, questo è un numero spaventoso, non, è un po' inferiore all'altro anno ma superiore a quello di 2 anni fa, di 3 anni fa, di 4 anni fa. I suicidi continuano a aumentare, fate il conto che questi 53 suicidi sono avvenuti su una popolazione che oscillava, i primi dell'anno era 60 e qualcosa, adesso è 61.200 presenti, quindi se su questa cifra, 61.000 persone, ci sono stati 53 suicidi, riportato al 61 milioni di persone, quindi ci aggiungete 3 zeri, sono 53.000 suicidi che dovrebbero avvenire ogni anno tra la popolazione di questo paese, cosa ovviamente che non è così, per fortuna. Quindi perché, prima domanda ci dobbiamo fare, ma ne vedremo dopo parecchie altre, ne vedremo altre, perché vogliamo portare avanti in quest'anno una serie di, così, di domande messe così in chiaro, e tutto quest'anno occuparci a tentare di dare delle risposte a queste domande. Lo vedremo oggi in questa prima trasmissione. Una delle domande però è scaturita adesso: perché ci si suicida in carcere circa 18, 19, 20 volte di più che fuori? Domanda. E quindi ovviamente è la galera che induce il suicidio, con tutta buona pace di quelli che ragionano di psicologia, psicoterapia e altro, che vogliono buttarla addirittura sul terreno psichiatrico. Molti psichiatri hanno detto no, ma il carcere fa diventare pazza la gente, quindi la gente quando si suicida è perché è impazzita. Beh, se il carcere facesse diventare pazza la gente, dovremmo portare lo Stato italiano, che è il padrone del carcere, quello che è responsabile del carcere, lo dovremmo portare davanti a un processo tipo processo di Norimberga. Perché vi immaginate voi uno Stato che prende dei propri cittadini e li fa impazzire? Beh, sarebbe il peggior crimine nei confronti dell'umanità, un crimine peggiore di quello, oppure più o meno simile a quello, appunto, diciamo, del regime nazista. Difatti quelli furono portati davanti a Norimberga, questo processo in cui anche gli esecutori degli ordini vennero processati, perché loro dicevano: ma noi ubbidivamo a un ordine. E gli si disse: ma devi imporre, se tu sei un essere umano stupido quanto quelli che ti comandano, oppure se vuoi intelligente come quelli che ti comandano, bene, quindi non puoi ripetere gli ordini così come una macchina, devi così ragionarci sopra, quindi sei responsabile, perché l'obbedienza, come ormai sappiamo da tempo, non è mai stata una virtù, ma adesso l'hanno detto la gran parte, lo pensiamo tutti, poi alcuni si adeguano, oggi tutti si adeguano a fare gli scemi, perché sanno che in cambio dell'obbedienza hanno una manciata di merci pressoché inutili, qualcuna anche dannosa, e per riempire così la giornata vuota e grama che ci regala questo regime. Dunque, quindi 53 suicidi, molto alto, drammatica, che non si riesce, nonostante tutti, appunto, gli arzigogoli di psicologi, psicanalisti, psichiatri, eccetera, non si riduce in questo modo, si riduce affrontando il problema della galera, e lo vedremo tra un po'. Vediamo intanto i dati. Il sovraffollamento di nuovo è arrivato a livelli molto alti, perché di fronte a 50.000 posti nominali, di cui però 3 o 4.000 sono in lavorazione per renderli adeguati, quindi di fatto non esistono, per cui 50.000 diventano 46-47.000, per cui il sovraffollamento, che ufficialmente è 121%, cioè i 61.200 sui 50.000, in realtà diventa 131,4%, quindi un sovraffollamento notevole, grosso. Alcuni carceri, per esempio San Vittore, è oltre il 200%, cioè ci sono il doppio di persone di quelle che ne potrebbero contenere, è veramente pazzesco. Questo è il quadro. Abbiamo detto, le presenze sono 61.200, 1.500 in più dell'anno scorso e 3.500 in più di 2 anni fa, quindi c'è questa escalation che non accenna a diminuire, perché le politiche carcerarie sono, come si dice volgarmente, forcaioli, cioè si crea questo terrore. Il nemico è quello che ha a che fare con la giustizia, qualunque cosa abbia fatto non ha importanza. Quindi c'è questo discorso del processo mediatico che ormai è diffusissimo, leggeremo tra un po', appunto, ciò che dicono le camere penali, che insomma sarebbero l'insieme di tutti gli avvocati, i difensori, perché di fronte a certi processi mediatici, cioè praticamente basta che una persona venga accusata, diventa già come se fosse stata condannata, saltando a pie pari tutto quello che il leader garantista minimamente dei processi. Senza processo si condanna tutto. Vabbè, questa è l'Italia da sempre. Considerate che ci sta ancora un buon 30-40% di persone, di questi 61.000, dentro quel carcere senza essere stati condannati, quindi violando tutto, non solo la Costituzione italiana, quella ormai sta sotto i piedi dei governanti, ma anche dei parlamentari, governo e opposizione, e anche della gran parte della gente, soprattutto delle classi alte, quelle che così sfoggiano qualche laurea presa non si sa bene come, o comunque credono, fanno finta di sapere, scrivono sui giornali anche litigando spesso con la lingua italiana, perché insomma non ne sanno granché, o che parlano in televisione. E insomma, questi che si ritengono di essere l'intelligenza di questo paese, non solo calpestano la Costituzione, ma anche i principi del diritto, che in qualche modo hanno da circa 2000 anni accompagnano il difficile cammino di questo paese. Vabbè, andiamo avanti, tra un attimo andremo proprio a vedere questa lettera che hanno scritto l'Osservatorio sull'informazione giudiziaria, è un ufficio particolare delle Camere Penali, Nei Cavalieri, appunto, adesso sono un insieme degli avvocati di tutta Italia che hanno anche un osservatorio sulle carceri, uno sull'informazione penale giudiziaria, cioè quello che esce sui giornali, e quindi dicono la loro su una questione che sentiremo. Allora, 15:10 minuti, andiamo avanti, eccolo qua, quello che dice l'osservatorio sull'informazione giudiziario dell'ufficio Camere Penali. E così del 26, del giorno dopo Natale, il 26 dicembre dello scorso anno, quindi qualche giorno fa, l'osservatorio sull'informazione giudiziaria interviene sulle dichiarazioni del dottor Gratteri, è un PM importante, e il parossismo del processo mediatico. Questi sono i punti in cui interviene. Nel corso di, e così continua il loro comunicato, nel corso di una roboante quanto preannunciata conferenza stampa tenutasi dopo il maxi blitz di Vibo Valencia, il dottor Gratteri ha affermato che l'indagine era nata il giorno del suo insediamento e che per lui era importante realizzare un sogno, ossia fare la rivoluzione, smontare la Calabria come un treno di Lego, pezzo per pezzo, e poi rimontarla. Queste frasi non ci stupiscono, anche perché da tempo, con tutto il rispetto, ci sembra che il dottor Gratteri avesse una visione un po' più articolata del proprio ruolo di inquirente. E sul punto si è già efficacemente espresso un magistrato, Ignazio Petrone, dicendo che queste affermazioni di Gratteri disvelano una concezione del diritto e della giustizia da stato etico, da partito unico, da processo staliniano. Il tema che ci interessa riguarda invece il fatto che queste inquietanti affermazioni, quelle di Gratteri, sembrano aver fatto poca presa sugli organi di stampa, tanto che il PM antimafia, tra l'offeso e l'adirato, ha twittato si è espresso in questo modo: la mia maxi operazione scompare dalle prime pagine dei grandi giornali. Si è lamentato con queste parole. È stata boicottata, ha continuato, era un grave errore, bisognerebbe chiedere conto ai direttori delle testate dei più importanti giornali di questo buco. Pensate alle parole di Gratteri, che si è arrabbiato perché la sua inchiesta non è andata a finire sulle prime pagine dei giornali. E quindi commenta l'osservatorio delle Camere Penali: siamo al parossismo del processo mediatico. Non solo si divulgano notizie sulle indagini come se le ipotesi investigative fossero già sentenze passate in giudicato, cioè come se fossero già stati condannati queste persone soltanto inquisite, ma si pretende addirittura che i giornali ne parlino in prima pagina. E qui ricordano loro, dice, probabilmente bisognerebbe ricordare altri, per esempio la famosa operazione Marin, in cui 125 persone furono arrestate e inquisite, di cui soltanto 8 di queste 125 condannate, oppure altre, tipo quello Metropolis, dove anche qui centinaia di persone inquisite e solo pochissime condannate. Questo dice, si lamentano e dicono alla fine. Per il resto, concludono questo comunicato le Camere Penali nell'osservatorio sulla informazione giudiziaria delle Camere Penali, per il resto speriamo che Babbo Natale porti al dottor Gratteri una scatola di Lego con le istruzioni di montaggio in tutte le lingue e qualche bel libro tipo Le lettere dal carcere di Enzo Tortora. Ecco, a me fa piacere, queste cose ci sa ormai, alcuni PM d'assalto, quelli che vanno sui cavalli bianchi a salvare non so se bene quale patria, da non si sa bene quale nemico, ebbene dicono queste cose, non è una novità. Quello che mi è piaciuto di questa lettera è che hanno ricordato il problema di Enzo Tortora. Ora non è il caso di fare qui una puntata, anche se sarebbe molto, ma poiché ho visto che in internet c'è abbastanza, se voi vi battete su Google Enzo Tortora, processo Enzo Tortora, condanna Enzo Tortora, cioè tutta la vicenda di Enzo Tortora è ben raccontata su internet, su Wikipedia. E questa persona, che era, se non ricordiamo, molti che ci hanno qualche anno sulle spalle lo ricordano, fu inquisito perché tre persone l'hanno accusato, tre pentiti, quindi già la saga iniziò in quel periodo, la saga dei pentiti, in cui la giustizia e il diritto vennero piegati ad affermare che qualunque cosa dicesse un pentito era la verità, senza altri riscontri oggettivi di nessun tipo, quindi hanno stravolto completamente, diciamo, il meccanismo della giustizia. Vabbè. Quindi ed è ben interessante, soprattutto è interessante che lo conoscano i giovani, perché quelli che hanno qualche annetto come me l'hanno vissuto in prima persona, quindi se lo ricordano. Invece i giovani praticamente non sanno quel processo fu una svolta abbastanza epocale nella questione italiana. Enzo Tortora visto come il nemico, quindi tutti contro, nessuno disse ma forse sarebbe il caso di vedere bene, verificare questo che dicono questi tre pentiti, che questi tre ebbero subito degli sconti. Tutti i PM e i giudici che l'hanno condannato, che poi hanno dovuto fare marcia indietro, perché nessuno di questi ovviamente è stato nemmeno multato, nemmeno con una multa di quelli che si prendono per un parcheggio in fuori delle strisce, vabbè. Però quindi è interessante. Da allora appunto venne questo, è stato un po' quell'avvio per cui oggi, no, la gran parte delle persone portate a pensare queste cose dal battage pubblicitario mediatico delle televisioni e anche dei giornali, di pensare che le cose vanno male in questo paese, la gente ha problemi perché c'è qualcuno che non viene condannato a sufficienza, sballando completamente quella che è invece l'analisi della realtà, che le cose vanno male perché c'è un sistema economico e un sistema politico che ovviamente sono contro chi lavora e chi le classi basse di questa società, sono a favore soltanto dei grandi, dei potenti, dei grandi. Vabbè, questa è la cosa che vorremmo leggere perché è importante questa cosa. Ricordate il caso Enzo Tortora, fatelo conoscere ai giovani, se avete amici, figli eccetera, oppure se siete giovani e ci ascoltate andatelo a trovare, c'è abbastanza, poi da lì trovate altri altri link, altri collegamenti, è un pezzo di storia italiana da non dimenticare. Allora, riprendi 15 e 19 in questo momento, riprendiamo. Diciamo, iniziamo la vera trasmissione quest'oggi, è un po', diciamo, il, come dire, la modulazione della, di tutte le trasmissioni che faremo per lungo periodo, perché bisogna rispondere a queste domande. Era anche l'ultima trasmissione dello scorso anno, che era fatta a dicembre, che ponevamo questi tre interrogativi, non sono nostri, ma sono interrogativi che arrovellano la testa delle persone sensate da circa 300 anni, tanti gli anni in cui esiste il carcere moderno, questo qui che è priva della libertà. Allora, la prima è: che cosa significa punire? Un grande interrogativo importante. La seconda: perché si punisce? E la terza: chi si sceglie di punire? Cioè, quali sono quelle fasce di popolazione sottoposte alla punizione? Ecco, queste tre domande ovviamente cercheremo di affrontarle da più punti di vista e ovviamente nel tempo. Prima ancora, però, prima di cominciare a rispondere, comunque proprio per avere degli elementi per rispondere a queste tre domande, ne dobbiamo vedere un'altra più contingente, più legata alla realtà, e quindi che si può desumere non solo sul ragionamento teorico, come queste tre domande rimandano, che sono tre interrogativi di carattere appunto teorico, proprio sul carattere della punizione, la sua storia e la sua attualità, ma anche e invece proprio più pragmatico, cioè nelle sentenze di oggi c'è corrispondenza tra il delitto e il castigo, questi due elementi riportati nella grande letteratura, delitti e castigo, chi è che non l'ha letto? Comunque, se non l'avete letto e siete giovani, leggetelo perché è un gran bel libro. Però comunque, delitto e castigo, queste due categorie che hanno un po' le due morsi, due, come una tenaglia, no? Le due che ci sentiamo stritolati da queste due, delitto e castigo, e quindi c'è corrispondenza, perché anche coloro che giustificano le classi dirigenti che gestiscono adesso la galera, cioè lo Stato, le istituzioni, la galera è strumento loro, è strumento della repressione, dell'ordine, del diritto, del sistema giuridico. Tutto questo, no? Tutto il diritto, il sistema giuridico, lo Stato, la repressione, tutto questo, l'ordine attuale arriva al punto terminale che è la galera. Quelli che non fanno, non permettono che funzioni tutto questo marchingegno che permette alla società di essere uguale a prima, cioè andare avanti uguale, sempre uguale, è chiaro, a loro spetta la galera. E però questi stessi che hanno creato la galera, che la mantengono in vita, hanno sempre detto, affermato, e anche nei libri, chi ha studiato giurisprudenza è un assunto fondamentale, ma anche lo si dice anche nelle altre, anche chi non studia giurisprudenza, perché è un punto centrale, ci deve essere corrispondenza tra delitto e castigo, cioè la punizione, il castigo deve essere corrispondente al delitto, al reato che si fa, non troppo grande né troppo piccola, cioè questa è la garanzia della pena, quella che viene detta la certezza della pena, che però altri, tutta la stupidità oggi vigente che è arrivata anche al governo purtroppo, dice che la certezza della pena per loro è mantenere la gente in galera fino all'ultimo giorno di galera. Ovviamente non è così, nessun giurista ha mai detto che la certezza della pena deve essere questa cosa qui, cioè tenere la gente in carcere fino all'ultimo giorno, cioè buttarla dentro e buttare la chiave, un po' schiaffare la gente in galera e buttare la chiave, come disse il ministro degli interni recentemente dimessosi. Ebbene, quello è proprio il massimo della ignoranza, non conoscenza di nulla, e anche poca intelligenza ovviamente, però molta, dobbiamo partire da questa realtà che gran parte della classe dirigente pensa questo e gran parte della popolazione italiana pensa questo, quindi il lavoro da fare è enorme. Però comunque anche coloro che giustificano la galera dicevano, hanno sempre detto che c'è appunto la certezza della pena, afferma esserci, che ci debba essere corrispondenza tra il delitto e il suo castigo, cioè tra il reato che si fa e la punizione che si ritiene giusta. Ecco, difatti le leggi vengono continuamente ritoccate proprio dal Parlamento, questo che viene di tutti i paesi, questo dovrebbe essere, io sto dicendo quello che dovrebbe essere, per adeguare la punizione prevista dalla legge per ogni violazione per ogni trasgressione o violazione, perché dovrebbe essere sempre più certa la corrispondenza tra delitto e castigo. Chiaro questo concetto? Questo è fondamentale per capire tutto il resto. Tutto il resto sono chiacchiere, appunto. La certezza delle pene è soltanto esclusivamente questo concetto. Mai Beccari avrebbe affermato, anche se a noi non è simpatico, ovviamente, però comunque, ma lui e tutti gli altri non avrebbero mai affermato una cosa come affermano oggi questi cialtroni che governano, che comunque siedono al Parlamento o nelle istituzioni o nei giornali o nelle televisioni, che dicono che certezza della pena significa schiaffare uno in galera e buttare la chiave. Non è così, ovviamente. Questo concetto di corrispondenza è bene che se lo teniamo presente per inoltrarci in questo complesso e complicato, soprattutto perché crea sofferenza. Questo ci interessa a noi, non perché vogliamo fare una bella tesi filosofica sul diritto, ma perché ci interessa che questa cosa qui fa soffrire delle persone. E difatti, poiché abbiamo parlato di corrispondenza tra delitto e castigo, vediamo subito concretamente, abbiamo detto questo è un aspetto della concretezza, pragmatico, della prassi odierna. Questa corrispondenza oggi è stata presa dalla pratica della giustizia, no? Dell'ordinamento giuridico, e è stata, diciamo, messa in pratica con la tecnica del patteggiamento. Che cos'è il patteggiamento? Questo per capire questa situazione, come concretamente oggi è la situazione. Non è che tutti quelli che stanno in galera hanno subito un regolare processo e sono stati poi condannati. Non è così. Intanto perché ce ne stanno un 30% che non hanno ancora subito il processo e quindi stanno, come dice, no? in detenzione preventiva. Ma semplicemente perché si sta affermando questa storia del patteggiamento. Che cos'è il patteggiamento? Il patteggiamento è un rapporto tra la difesa e l'accusa di una persona inquisita, accusata di qualche reato, di qualche trasgressione e inquisita, e che il pubblico ministero e il difensore di questa persona si mettono al tavolo, dicono: se però l'accusato, il pubblico ministero propone al difensore, o viceversa il difensore che lo propone, dice: questa persona accusata afferma di essere responsabile dell'accusa che gli si ritorce contro, spiega come è andato il fatto vuol patteggiare tra accusa e difesa, patteggiamo una pena, una condanna, saltando tutto l'iter dei processi, perché questo si accusa di ciò di cui viene accusato, si accusa responsabile, e quindi però con uno sconto massiccio di pena. Quindi c'è il patteggiamento che viene seguito dalla negoziazione. La negoziazione è proprio questo rapporto tra difesa e accusa che decidono subito come scende, diciamo, in genere un terzo per il patteggiamento e un terzo per le negoziazioni, che si toglie. Questa è la media, poi ovviamente ogni caso va visto a sé, però la media oscilla molto rigidamente intorno a, quindi sono due terzi. Quindi una persona che accetta il patteggiamento gli viene data una pena subito, quindi diventa inquisito subito, definitivo, sconta quello che deve scontare e poi se ne è a casa. Il problema è che la gran parte di questi che accettano il patteggiamento in realtà sono innocenti, però l'avvocato dice a queste persone: attenzione, tu sei innocente, ma qui se affrontiamo un iter giudiziario col processo di primo e di secondo grado sicuramente non abbiamo le capacità, gli strumenti o anche le testimonianze in grado di dimostrare la tua innocenza, quindi sarà difficile dimostrarla. Qualcuno dirà: ma come, nello Stato di diritto è l'accusa che deve dimostrare la colpevolezza, non la difesa deve dimostrare l'innocenza. È vero, anche questo è nei principi del diritto, però questa cosa è saltata da parecchio tempo e non è così. Se una persona viene accusata, inquisita, portata sul banco degli accusati, deve dimostrare di essere innocente, altrimenti si becca l'accusa e questa accusa diventa definitiva nel processo. Allora, attenzione, abbiamo i dati della Maryland, scusate la raucedine, se abbiamo i dati degli Stati Uniti d'America, in Italia non ci danno questi dati, vedremo di trovarli. In America ci stanno circa 2.5 milioni, 2.400.000 per essere, addirittura 2.350.000 persone incarcerate nelle varie forme, ma sono sia nelle carceri, quelle diciamo a livello regionale, jail, e sia nelle prison, quelle di Stato, più quelle private, perché le private sono pochissime. Comunque, su 2.350 persone detenute, 2 milioni, quindi quasi l'80%, non ho fatto la percentuale, ma 2 milioni su questi 2.350.000 sono persone che si trovano in carcere per scontare la propria pena senza aver subito alcun processo, perché hanno accettato il patteggiamento e la negoziazione. Ovviamente hanno preso una pena molto più bassa di quella edittale prevista dalla legge, però così si sono dichiarati colpevoli senza molti avvocati. Poi questi in America, dove poi piace andare davanti alla stampa e la stampa interviste, cioè qualche giornale che ha fatto qualche piccola inchiesta, è venuto fuori appunto che circa 2 milioni, poi la giustizia fa come gli pare in America, no? Però gli piace dirlo, un po' come Trump, che ha detto noi facciamo come ci pare di fronte all'ultima cosa che ha fatto. Non è che si è giustificato, non è mai successo che un capo di Stato rivendicasse proprio pubblicamente, lui, il capo del governo, tutti quanti dicessero sì, è vero, abbiamo ammazzato uno che un capo di Stato, comunque un alto personaggio di uno Stato che non ci piace, perché facciamo come ci pare, siamo i più forti, possiamo farlo. Questo ha detto, noi siamo più forti, possiamo fare come ci pare, punto. Ora, questa cosa anche gli Stati forti, anche gli Stati carognoni, quelli degli imperi, non l'hanno mai detta, perché non è che si dice ma forse così, cioè casomai l'ammazzi ma non lo rivendi. E invece, capite? Ecco, e quindi l'America è un po' così, anche le porcate ingiustizie ne fanno tantissime, e poi hanno la faccia tosta di dirle ai giornali, così vanno pure sui giornali e diventano famosi. Quindi in America è questa, 2 milioni di persone, attenzione, su 2.350.000, 2 milioni, quindi l'80%, fate il calcolo voi, si trovano in carcere senza aver subito un processo, stanno scontando la pena. E fino alla fine, ovviamente, hanno appunto una condanna molto più breve di quella che gli sarebbe aspettata se avessero affrontato il processo, però avrebbero potuto essere anche uscirne innocenti, perché di fatto lo erano, sentendo molti di questi, però hanno pensato che gli conveniva, invece di seguire l'iter processuale con costi enormi, perché poi se vieni condannato devi pagare pure i costi del processo, del costo dell'avvocato, del processo, tutto il resto, e poi se vieni condannato prendi in genere la condanna più alta. Invece in questo modo se la sono cavata con poco, anche se erano innocenti, però non avevano gli strumenti per poter dimostrare la propria innocenza. Attenzione che questo meccanismo del patteggiamento e poi la negoziazione, chi lo accetta non paga nemmeno le spese processuali, cioè gli vengono affrancate completamente. Quindi perché ha fatto questa cosa, no? Ha accelerato questo meccanismo nella giustizia americana, e credo che la giustizia sicuramente di tutti i paesi sta avvenendo questo passaggio. Perché? Intanto per una riduzione dei costi, i processi sono costosi, anche se poi fai pagare all'imputato, in genere sono imputati, sono poveri, non ce l'hanno nemmeno i soldi che vuoi spremere, non ce l'hanno, quindi rimangono inevasi. Lo sapete, in Italia le spese di giustizia non vengono evase, perché la grandissima parte delle persone condannate sono povera gente, non hanno soldi, gli rimane questo debito sulla testa, ma non lo pagheranno mai, perché come fai? Non si può pagare. E allora non ce l'hanno, come fanno a pagarlo? Quindi rimane evaso. In più accelerano un po' quel fatto storico che anche qui in Italia ormai è su nel dibattito attuale, la lunghezza dei processi. Con questo modo del patteggiamento si riducono la lunghezza dei processi. Però attenzione, è saltato già con questa pratica che sta avvenendo. I dati dell'America sono questi, quelli dell'Italia se li troviamo, ma non è facile, perché li devono dare loro, li dovrebbero dare i pubblici ministeri, l'ufficio delle procure, della procura generale dovrebbe dare questi dati, però qualche cosa si può sapere dagli avvocati, ma una cosa parziale, però appunto è questa la tendenza che si sta affermando. Questo non c'entra niente con i principi del diritto, perché dicevano una persona, lo dice anche la Costituzione, non può essere carcerata finché non ha subito tutti i gradi del processo che decidono che è responsabile, quindi colpevole, però tutto questo fa parte delle teorie ormai non più funzionali. Allora, 15:36, andiamo avanti. Allora, per iniziare a svolgere il tema, il compito che ci siamo dati, compitino, e non è tanto ino, ma è molto un compitone, di rispondere a quelle tre domande: perché si punisce, chi si punisce e che cos'è la punizione. Allora, vediamo, ci serve un altro elemento, che è questo. Due accenni della storia della punizione. Non che vogliamo fare la storia di punizione, perché la faremo nel corso dell'anno, però non adesso, perché è molto lunga e complessa. Però una cosa va subito sfatata: gira il mito, ma siamo un mondo pieno di miti, al pari se non più del periodo in cui si parlava di streghe, di diavoli, no, quando ce ne stanno di più, perché i giornali, per esempio, alcuni giornali, il 90% sono pieni di falsità, no? che rappresentano delle mitologie diventate. Per esempio, che la punizione è sempre esistita, questo lo dicono tutti. Perché vi lamentate contro la galera, ci dicono, no? Quando facciamo manifestare la gente comune girando, perché vi lamentate contro la galera? In fondo c'è sempre stata. Non è vero assolutamente, la punizione non è vero che c'è sempre stata. La punizione è una cosa molto recente. Allora qualcuno dirà, ma perché alle persone che facevano, trasgredivano le leggi, le regole, venivano lasciate andare? No, era un altro, l'atteggiamento di fronte a chi trasgrediva le regole era diverso nelle varie società, è stato diverso, ha avuto tante sfaccettature, tante movimenti che poi via via sono state assommate in questo concetto di punizione. Ma se cioè, la punizione intesa quella che conosciamo oggi ha circa 300 anni di storia, non di più. Prima c'erano tante, ce ne sono state tante. Per esempio, il tema centrale che è stato alla base di gran parte delle società era una sorta di confronto tra chi aveva subito diciamo la trasgressione e chi l'aveva praticata. Questi due soggetti sociali venivano messi a confronto. E si diceva che quello che aveva subito un furto, una rapina, quello che era, insomma, no? Anche una violazione della propria incolumità, una ferita, eccetera, aveva subito un torto che andava sicuramente sanato. E come andava sanato? Con una restituzione. Cioè era stato, bisognava, come se la persona che aveva fatto la trasgressione avesse prodotto al singolo oppure alla comunità o a chi sia un danno, e doveva semplicemente ripianare questo danno, come se avesse maturato un debito nei confronti o della singola persona, se era una rapina, un furto a una singola persona, oppure un danno alla comunità, e questo danno doveva risarcirlo. Come? E qui i modi erano tanti, in genere con il lavoro gratuito, con un debito che si estingueva col tempo dopo aver fatto delle rimesse in termini di lavoro, di attività, oppure di restituzione del maltolto, di varie cose, no? Quindi quasi sempre le società nei tempi antichi, così ci raccontano gli antropologi, per esempio, che delle società antiche e fino alla società, per esempio la società tedesca, le varie società germaniche che si sono affacciate sull'impero romano al suo più o meno venir meno, insomma al 300-400 d.C., ebbene queste società avevano un altro ordine, un altro diritto su questo punto, che chi trasgrediva veniva messo al centro del consiglio degli anziani o del consiglio di villaggio, quello che era, o anche delle società più complesse, veniva messo al centro e l'insieme della società decideva come dovesse ripianare il debito che aveva maturato nel fare quella trasgressione. Quindi la trasgressione era era un debito. Le società germaniche, quasi tutte, dai franchi erano anch'essi i germani, e tutte le società che sono i galli, appunto, e poi c'erano i goti, i visigoti, i vandi, tutte queste popolazioni che sono entrate nei confini dell'impero romano avevano questa impostazione, piccole sfumature, mentre invece il diritto romano aveva un'impostazione già basata sulla punizione, però non la galera, non c'era la galera. La galera esisteva soltanto, se voi vedete il carcere mamertino qui a Roma, la storia del carcere mamertino ve lo può raccontare chiunque, serviva soltanto per detenere le persone in attesa del processo, non come condanne, perché non scappasse, no? Cioè, una persona veniva presa, veniva tenuto lì in attesa del processo, poi col processo si decideva che pena dare. La pena non era mai la sottrazione di libertà, erano anche mutilazioni, buttare fuori dai confini della comunità dove era avvenuto, tantissime, oppure la gran parte erano di carattere remunerativo, cioè devi pagare il debito che hai fatto. Però poi l'incontro o lo scontro tra queste due impostazioni fece in modo che nella modernità venne raccolto più il diritto romano, ancora oggi, e venne cascato sul concetto di punizione. Una punizione che però deve essere, secondo appunto chi ha cominciato a coniare questo concetto di punizione, deve implicare una sofferenza, deve avere conseguenze giudicate sgradevoli. Deve essere applicata esclusivamente all'autore, questa è ovvia, e deve essere applicata da un'autorità esterna dai due, questo è un concetto molto importante, perché invece prima, cioè con la punizione moderna, questa appunto in voga, le due persone, mettiamo l'autore dell'infrazione e chi la subisce, vengono adesso separati, esclusi dalla vicenda. Nel processo, in tutto l'iter giudiziario, le due persone non c'entrano più, se non come ci può entrare come parti, come vengono completamente escluse, mentre invece in quelle altre situazioni che sono le gran parte delle società esistite prima di quella moderna, erano loro che si confrontavano, E quindi la comunità gli chiedeva perché l'hai fatto, perché che cosa volevi ottenere, che hai ottenuto adesso, e quindi questa persona che aveva commesso la trasgressione veniva ritenuta che aveva maturato un debito o verso il singolo, la persona quella a cui aveva fatto il danno, oppure verso tutta la comunità. Quindi era un debitore, non un reo da punire. Questo è il concetto. Debito invece che punizione. Questi due elementi che viaggiano per un po' di tempo insieme, affiancati, e poi ovviamente prevale la punizione con quel concetto di sofferenza sgradevole. Quindi la punizione come inflizione di sofferenza tramite la sottrazione del bene più importante che c'è, su questo sono tutti d'accordo, il bene più importante che c'ha l'essere umano, qual è? La libertà, prima di tutti gli altri, no? E questa cosa gli si toglie il bene più importante e quindi per imporre la maggior sofferenza possibile, perché hanno ritenuto i fautori della galera che la sottrazione di libertà per un lungo periodo fosse più dolorosa, imponesse più sofferenza che non la sofferenza fisica, cioè tagliare, bruciare eccetera, perché quella è limitata nel tempo, quella fisica, mentre invece quella sottrazione di libertà è come la mutilazione, è permanente. Dobbiamo collegarci con una compagna per parlare dei prossimi appuntamenti al CPR, diciamo dei presidi da fare, però qualcuno ha telefonato e ha lasciato la cornetta attaccata, il telefono staccato, per cui la linea risulta occupata. Se per favore possono interrompere la comunicazione, ma è da circa mezz'ora che c'è questa la linea occupata, così la linea può essere libera e possiamo realizzare questa corrispondenza. Grazie. Love I have inside, But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I'm being somebody in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could. Allora, come dicevamo, siamo in collegamento con una compagna perché del comitato per la Conte CPR, sapete perché ci sarà domani un'assemblea per organizzare un presidio sotto i CPR. Pronto? Sì, ciao, pronto. Pronto, sì. Mi sentite? Sì, ti ascoltiamo. Ok. Buon pomeriggio a tutti e a tutte e grazie per questo spazio, visto che si parla di galere, di libertà, e allora parliamo pure di quelle che sono i centri di permanenza per il rimpatrio, che sono le galere dove vengono reclusi i migranti e le migranti senza documenti. Esatto. Allora, come già hai detto, insomma, ci sono diversi appuntamenti questa settimana, non solo a Roma, però poi darò un po' più di dettagli su questo, ma anche a Torino e a Gradisca, quindi appuntamenti solidali, però volevo giusto dare degli aggiornamenti e delle informazioni generali sui CPR in Italia, che sono un po' sparsi su tutto il territorio. Al sud, dove abbiamo Bari, Brindisi, Caltanissetta, Potenza e Trapani. Al nord, fino a poco tempo fa c'era solo Torino, e a metà dicembre è stato aperto un nuovo CPR che è a Gradisca, vicino Gorizia. E in realtà in progetto c'è anche quello di aprire tre altri centri di permanenza per il rimpatrio. E in Sardegna uno a Macomer, un altro a Milano ed un altro a Modena, però diciamo che pare che per motivi burocratici questi altri tre CPR ancora non siano aperti, cioè, per nostra fortuna. Il fatto è che tutti i governi che in qualche modo si sono succeduti fino adesso hanno avuto una strategia politica in cui c'è stata una certa continuità, cioè quella in qualche modo di voler aprire un CPR in ogni regione. E il fatto è che i nostri governi forse non hanno più che altro fatto il conto con quello che è la rabbia, la determinazione e anche il desiderio di libertà di tutte le persone recluse in queste galere. Perché ci sono sempre state, ma da diversi mesi e soprattutto nelle ultime settimane, ci sono moltissime rivolte che stanno accadendo all'interno dei CPR, proprio perché le persone in qualche modo vogliono riconquistarsi la loro libertà. E volevo che spiegassi bene perché non hanno speranza, cioè la parola CPR significa che stanno lì in attesa di essere rimpatriate, quindi la speranza è zero, no? Sì, cioè, la maggior parte di loro chiaramente non avendo documenti e alcuna richiesta d'asilo che verrà considerata o comunque verrà accordata, certo il loro destino è quello di essere rimandati indietro, probabilmente dopo che hanno fatto anni, mesi di viaggio e anche insomma a rischio della propria vita, certo. E verranno rimandati nei paesi da cui sono scappati per poi diverse ragioni, naturalmente non solo per la guerra, ma le ragioni possono essere tantissime per cui una persona decide di volere una vita migliore di quella che ha nel proprio paese. E comunque volevo dare dei brevi aggiornamenti su quello che sta succedendo a Torino, perché a Torino praticamente il CPR è quasi completamente tutto inagibile, è rimasta solo una parte agibile, quindi le persone sono anche costrette a dormire alla ghiaccio per terra, e proprio perché la rivolta dei reclusi ha messo a fuoco diverse strutture. Naturalmente la repressione da parte delle guardie non si è fatta attendere, perché comunque c'è stata una forte repressione, nel senso che tutte le persone poi all'interno sono state picchiate, alcune sono state portate via proprio perché alcuni ragazzi considerati responsabili della devastazione, e quindi la situazione è veramente molto pesante. E infatti non solo a Roma, ma sabato anche a Torino e anche a Gradisca ci sarà un presidio solidale. Oltre a Torino, anche a Gradisca, che è stato aperto appunto a metà dicembre, ci sono state altre più che rivolte, resistenze, nel senso che le persone stanno cercando di resistere a questa detenzione con purtroppo atti di autolesionismo, perché anche questo accade, quindi le persone cercano, utilizzando il proprio corpo, di uscire da quei lager. Per cui insomma la situazione anche a Gradisca è abbastanza pesante, ma le rivolte ci sono state anche al CPR di Trapani, quindi al sud, e anche lì la maggior parte della struttura è stata distrutta, però la difficoltà è che le informazioni su questo non girano molto, non è facile averle, quindi a dicembre anche a Bari molte aree sono state, nel CPR di Bari molte aree sono state distrutte. E naturalmente quello che i vari governi hanno cercato di fare fino ad oggi, voler aprire un CPR in ogni regione, è quello di fare, come quei decreti Salvini, leggi per criminalizzare proprio chi vuole fuggire dal proprio paese e cercare una vita migliore, ma anche chi solidarizza con le persone recluse in queste galere. E quindi molti compagni e molte compagne che hanno portato e portano ancora avanti tutti i giorni una lotta contro questi lager, contro le frontiere, e vengono repressi, e molti purtroppo, e molte sono state fino ad oggi anche arrestate. Mm-hmm. Volevo poi passare naturalmente a quella che è la situazione di Ponte Galeria, che voglio ricordare è anche l'unico CPR che ha una sezione femminile in tutta l'Italia, e dove però rispetto a tutti gli altri CPR purtroppo da diverso tempo non si hanno molte notizie. Le ragioni sono diverse, una per esempio è il fatto che nella sezione maschile c'è un regolamento molto rigido per cui i reclusi non possono avere il cellulare, cioè praticamente gli viene sequestrato all'entrata, per cui la loro possibilità di comunicare è molto molto remota, nel senso che possono comunicare con l'esterno solo attraverso una scheda che possono acquistare all'interno del CPR, però per utilizzare i telefoni interni, quindi cioè, immaginiamo che siano anche telefoni molto controllati, se senti la libertà di poter parlare con chi vuole, ma anche la possibilità di parlare con la propria famiglia, gli avvocati, diventa sempre più difficile. E questa situazione infatti li ha portati a giugno, un po' di mesi fa, a tentare un'evasione che è riuscita per molti, e anche una rivolta. Quindi diciamo che la struttura maschile, che era stata costruita con sistemi di videosorveglianza, mura altissime, in realtà non ha funzionato più di tanto, perché le persone sono fuggite e sono riuscite anche a devastare una parte dell'area maschile. Però adesso da mesi non abbiamo notizie neanche dalla sezione femminile. Pure nella sezione femminile a volte non è facile, per esempio quando ci sono i presidi solidali, le donne vengono trasferite e rinchiuse nella parte più lontana rispetto a dove c'è il presidio, quindi difficilmente a volte riescono a sentire le grida dall'esterno, la solidarietà che arriva, anche se a volte invece, siccome se riusciamo ad essere un numero molto maggiore di compagni e di compagne, le grida riescono ad arrivare, quindi loro in qualche modo ci rispondono, e devo dire che questo ci dà un po' di calore, e quindi ci spinge appunto a urlare ancora più forte. Certo. E proprio per questa ragione io credo che sia importante dare questi due appuntamenti su Roma, proprio perché in questo momento in cui il CPR di Ponte Galeria è in qualche modo circondato da un silenzio ancora maggiore rispetto ai mesi passati, è importante essere veramente molti e molte lì fuori. Allora, il primo appuntamento che intanto vorrei dare è domani, giovedì, c'è questa assemblea pubblica che abbiamo chiamato al BAM, che è a Via dei Castani 42, alle ore 19:30, proprio per un po' condividere quello che sta succedendo nei vari CPR, ma anche organizzare a tutti i compagni e tutte le compagne che verranno il presidio di sabato, e insomma parlare un po' anche di quello che succede lì, ma che succede in tutta Italia. E non solo, anche in Europa. Mm-hmm. E poi il secondo appunto è il presidio di sabato 11 fuori dalle mura di Ponte Galeria, e l'appuntamento è alle ore 16 alla stazione Fiera di Roma. Praticamente per arrivarci c'è il trenino, quello che va arriva fino a Fiumicino, cioè proprio la fermata Fiera di Roma. E il treno passa poi per le stazioni anche centrali di Ostiense, Trastevere, quindi diciamo che arrivare è abbastanza facile, nonostante poi Ponte Galeria sia questo CPR sia un posto veramente desolato, immagino, non c'è proprio niente a parte degli uffici, non c'è nulla a parte la Fiera di Roma, ma figuriamoci le persone che a volte vanno alla Fiera di Roma, sono poco interessate sia al presidio sia a quello che succede lì dentro. Certo. Però ha una posizione strategica, perché è vicinissimo a Fiumicino, per cui i rimpatri sono abbastanza veloci da fare, visto che sono pochi chilometri per raggiungere l'aeroporto. E quindi io veramente invito tutti e tutte ad esserci domani, in modo tale da costruire insieme anche il presidio di sabato, ma soprattutto ad esserci sabato, proprio per portare solidarietà a chi è recluso lì dentro, fargli sentire che non sono soli e non sono sole, e che comunque c'è qualcuno insomma in questa città che sa che lì c'è un maledetto lager, e che insomma sparisca come come tutte le galere, come tutte le galere. Vabbè, piano piano cerchiamo. Comunque allora ripetiamo l'appuntamento: domani a Centocelle al BAM, via dei Castani 42, alle 18 hai detto? 19:30. Alle 19:30 di sera alla riunione. E poi il giorno dopo, cioè sabato, due giorni dopo, alla fermata della Fiera di Roma alle ore 16, quella, giusto? Alle 16. Perfetto. Ok. Ti ringraziamo e ci si vede in piazza, diciamo, in queste iniziative. Sì. Grazie. Grazie a te e buonanotte. Grazie. Ciao. A presto. A presto.